America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Cancellati molti voli per le ceneri del vulcano, cancellato ieri anche il nostro programma proprio per dare spazio all'informazione importante che riguarda questa crisi, che non è soltanto una crisi di aeroporti e passeggeri, ma rischia di essere anche una crisi economica. Continua qui in America la polemica sul caso Goldman Sachs. Abbiamo saputo ieri che gli alti vertici della banca, non soltanto un funzionario di basso rango, erano informati di quel che capitava nel settore mutui, erano informati di questa dinamica secondo cui si impacchettavano delle obbligazioni per venderle ai dei clienti, ignari del fatto che poi la stessa banca o clienti della banca speculavano. È una settimana in generale di fuoco qui in America. Abbiamo un G20 oggi a Washington, un G20 del lavoro con il nostro ministro Maurizio Sacconi a rappresentare l'Italia. Si discuterà di come rilanciare l'occupazione. Partono oggi a Washington le riunioni del Fondo Monetario Internazionale, ci saranno proiezioni su tassi di crescita anche per l'Italia, naturalmente si parlerà di Grecia. Infine in settimana avremo venerdì il G7 dei ministri finanziari, di nuovo si farà il punto su Grecia e su interventi per stabilizzare i mercati, ma all'ordine del giorno continua a restare il caso Goldman Sachs. As you know, today we charge Goldman Sachs with fraud. La voce che avete ascoltato è di Robert Cusami, il responsabile della visione coercitiva del SEC. Ha accusato Goldman Sachs in procedura civile di aver truffato i suoi clienti con operazioni speculative sul mercato subprime nel 2007, proprio quando stava per esplodere la crisi finanziaria. Di fatto Goldman Sachs vendeva dei pacchetti che comprendevano diversi mutui immobiliari ai suoi clienti, li vendeva col suo marchio di fabbrica, quindi con grande credibilità, e poi andava sul mercato per giocare, speculare al ribasso su quegli stessi titoli. In questo caso c'è un aggravante: il pacchetto sarebbe stato costruito su ordinazione per conto di Paulson & Company, uno dei fondi più importanti a New York. Paulson pagò 15 milioni di dollari alla banca per la creazione di questo strumento, chiamato in gergo CDO, Collateralized Debt Obligation. La banca non informò i clienti ai quali vendette questo pacchetto che dietro c'era Paulson, e soprattutto che Paulson sarebbe poi andato a speculare contro. Con questi capi d'accusa, venerdì scorso il titolo Goldman ha perso il 13% in borsa, è caduto a circa $162. La borsa ha perso l'1,5%. Altri titoli finanziari, sempre settimana scorsa, hanno perso tra il 4 e il 4,5%. Ieri nervi saldi, Wall Street ha recuperato lo 0,67%, aumento 73 punti, stabilmente al di sopra di quota 11.000. Anche Goldman ha fatto un po' meglio, ha recuperato l'1,63%, ma siamo pur sempre a quota 163 contro quota 180 della settimana scorsa. La notizia del giorno che ha rassicurato il mercato riguarda Citi, la banca che ha registrato un profitto di $4 miliardi, e quindi dopo due anni è tornata in nero. The season after we had four hurricanes on the East Coast, which was absolutely extraordinary, versus the year before. Ecco, in questo caso avete sentito la voce così un po' irritata, direi, di Lloyd Blankfein, il capo di Goldman Sachs, che respingeva accuse nel corso di un'audizione alla commissione bancaria, accuse contro la sua banca e le altre istituzioni di aver un po' manipolato il mercato. La linea di Goldman Sachs è sempre stata dura, di risposta dura. Anche in questo caso la risposta di Goldman è stata di nuovo ferma ed aggressiva. Le accuse sono prive di fondamento sia nei fatti che nelle componenti giuridiche, ha detto la banca in un comunicato. Atteggiamento che abbiamo visto in passato, reazioni analoghe quando si trattò di rispondere alle polemiche sui bonus straordinari, su bonus miliardari che venivano elargiti dalla banca, che si salvò grazie all'intervento dello Stato. Le abbiamo viste quando ci furono attacchi alle istituzioni finanziarie ritenute colpevoli di aver in qualche modo creato la crisi economica speculando sul mercato senza regole. Ecco, io non credo che sia la scelta accurata in questo caso da parte di Goldman di mantenersi su questa linea difensiva che punta sul contrattacco, perché con la rivelazione del ruolo di Paulson, ruolo che non è stato rivelato al mercato come avrebbe dovuto fare la banca, ecco, mi sembra difficile che fattualmente e giuridicamente, almeno in questo caso, riesca a dimostrare il contrario. Di certo la questione è complicata anche sul piano politico. I hope that we can pass a bipartisan bill. Ecco la componente politica. Il presidente Barack Obama fa dichiarazioni sulla proposta di riforma del settore finanziario, apre ai repubblicani, auspica che possano partecipare alla formulazione di una nuova proposta di legge, ma vuole essere realista e dice: se sarà necessario andremo avanti da soli. Andare avanti da soli significa portare al Senato la proposta di riforma di Christopher Dodd. Già questa settimana potrebbe partire il dibattito sulla riforma finanziaria. Il fatto che arrivi in coincidenza dello scandalo Goldman non aiuta certo la posizione delle banche americane contrari a questo progetto di riforma. Avevano mobilitato delle lobby politiche importanti, avevano mobilitato soprattutto i repubblicani, ma per il presidente Barack Obama la partita politica è importante, direi è quasi chiave, perché c'è un aspetto populista. Lui e la sua amministrazione, accusati dagli americani di aver dato soldi a Wall Street per salvare le banche che avevano messo in ginocchio il paese, ecco, tornano come angeli vendicatori a chiedere regole durissime. E sono i repubblicani invece ad appoggiare le banche. Se non ci fosse stato lo scandalo Goldman, beh, forse la posizione dei repubblicani poteva in qualche modo passare, ma qui i repubblicani rischiano grosso di passare dalla parte del torto e di diventare loro stesse antipopuliste. And that's the voices from the other world, the real world, where people can't get loans, where people can't refinance their homes, where people can't buy automobiles, can't send their children to college. La gente per strada non sta bene, non ricevono prestiti, soffrono, c'è il tasso di disoccupazione. E da voi che cosa ascoltiamo? Parole, parole, parole, parole. Vi ho fatto ascoltare Gary Ackerman, democratico di New York, perché il sentimento nei confronti delle banche, come dicevo, resta molto critico nel contesto dell'opinione pubblica americana. Proprio su Goldman Sachs, al di là dello scandalo, in questi giorni è giunta un'altra notizia che in qualche modo non aiuta la banca: i nuovi uffici. La banca si è trasferita in un grattacielo da 43 piani, vetro, acciaio, costo 2,1 miliardi di dollari. Ebbene, ci sono le proteste. Questa volta vengono dai dipendenti. Si è saputo che soltanto 300 banchieri, proprio l'elite dei partner della banca, avranno l'ufficio con una bella vista e con delle finestre. I managing director, che sono poi il grado successivo nella gerarchia, avranno invece uffici senza finestre, mentre i vice president, che sono già dei funzionari di alto livello, sono stati retrocessi nello spazio aperto. Avevano il loro ufficio, la loro privacy, non l'avranno più. Migliaia di persone scontente. Anche questo, credo, non aiuterà l'immagine di Goldman. Vorrei approfittare per ricordarvi che ieri si è avuto il 15° anniversario dell'attentato a Oklahoma City. Lo ricorderete, centinaia di vittime per l'attentato di due terroristi della destra antifederale che appunto bombardarono un palazzo federale, un palazzo del governo. L'ex presidente Bill Clinton è intervenuto e ha cercato di offrire una sua riflessione in materia, dicendo di fare attenzione al messaggio indiretto che movimenti come quello dei Tea Parties possono dare a certe frange del movimento della destra americano. Ci sono militanti decisi ad attaccare il governo federale, contro il governo federale. Attenzione, ha detto il presidente Clinton, a non incoraggiare alcune di queste frange. Un messaggio ovviamente molto duro sul piano politico, recepito male dai repubblicani e dal movimento dei Tea Parties. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Si è appena concluso in California il Festival di Coachella, uno degli eventi musicali più attesi di questa primavera. 150 cantanti, ma la vera star è stata Julian Casablanca, figlio tra l'altro di quel Casablanca che fondò l'agenzia di modelle Elite. Bene, Julian ha fatto un disco un po' di mesi fa che è diventato un gran successo. A lui dunque dedichiamo la canzone del giorno, 11th Dimension. I've never been so good at shaking hands. parte è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!